Gianfranco Frattini, arrivando a Pechino, fa un richiamo autorevole sulla questione dei diritti umani calpestati in Cina, fa benissimo, mi auguro che lo faccia, lo invito a fare anche attraverso questo vostro appello. Io addirittura faccio un'altra proposta giorni fa: i capi di Stato o i rappresentanti di governo occidentali avrebbero dovuto subordinare, secondo me, la loro presenza a Pechino all'invito al Dalai Lama. Lei pensi quale forza di messaggio avrebbe avuto la presenza pacifica, serena del Dalai Lama sulle tribune? Trovo vergognosa la acquiescenza occidentale nei confronti della dittatura cinese, trovo vergognoso l'apertura dei mercati a un paese che sfrutta i bambini, che inquina il pianeta, che fa fabbricare prodotti nei gulag, che massacra il Tibet. La mia posizione sulla Cina sarà eterodossa, ma una posizione di verità e di libertà.